sai perché? Perché vedi quanto rapida la amica di mia figlia a casa. Quanto è bello il cane, quanto è bello il cane, ma è proprio per sentire una cosa. Però senza collare c'è un cane di quelli di strada. Perché non glielo compri in una cartella, qualche cosa? Bagna un po' turbato la storia. E allora glielo prendo. Solo che adesso crescendo il collo si è ingrossato, claro, sta facendo il segno non nella carne, nel pelo si sta facendo il segno, capito? Lo stava per te. E allora glielo voglio più là. Faccio offesa di via, faccio un brodo a Alicia Pizzina, i cani a casa non ne hanno di niente. Scusate per la casa a luci. Ma voi signori, devo andare a scogliere un attimo, a casa non la tengo perché era fastidio, sta sempre grattandosi, no, no, è ancora peggio. Ancora peggio il cane, quando è a casa deve essere libero, capito? Deve essere come un piccinetto senza pannolino. No, no, sono contrario io, sono contrario perché le dà fastidio quando dorme. Se prova a ponerti una catenina e tu ricatti, dà fastidio. Quindi deve essere libero. Poi la mattina lo prende e glielo metti. Quando esci, può scappare nella strada, ma non è che abbia gli annessi in andano. Allora, dai, ti dico una cosa. Un giorno sono tornato con la spesa a casa e mi hanno aperto la porta e stavamo mettendo, mi stavo iniziando a portare le luce dall'ascensore al tavolo, perché poi dal tavolo è sicuro. Beh, in questa pulizia se ne è scappato. Se ne è scappato da casa, se ne è sceso giù, meno male che ho fatto il portone chiuso, ecco, c'è per guarire, e allora io mi sono accorto che il cane non c'era, sono andato a cercare, sono sceso giù, il portone c'era preso l'ascensore, guardato giù. Insomma, siamo riusciti a trovare. E un'altra volta me l'hanno portato lo stesso a casa, se ne è scappato. Per quello che lo lascio, non c'è paura. Allora recidiva la cosa, va bene, allora fai bene, ma il mio no, il mio io lascio la porta aperta, capito? Quando lo riconosce perché riconosce la macchina, quando sente la macchina va alla porta, io le apro la porta, e lui si siede nelle scale, nell'ingresso delle scale, aspetta che salga l'aria, non si muove, non va a nessuna parte, nulla assolutamente, eppure sta guardando le scale e guardando l'ascensore, dice ma da dove arriva, da una parte all'altra deve arrivare, capito? Ma mai, mai e poi mai, no, allora se così hai fatto bene, ma Filippo no, assolutamente, non si muove, perché tu le apri la porta e lui non va a nessuna parte, sta nel pianerotto aspettando che tu sali, non si è mai permesso di... Quando c'è Mario giù, che mi citofora, mi dice faccia scendere a Filippo, allora apre la porta, vai che c'è Babbo, corri, vai, vai, corri, lo fischia e scende da solo le scale. Però se tu non sei giù che lo chiami non ci viene lui. E scende in fondo alla Iana. Mamma mia, e se noi faccia tutto? Se tu lo fischi che è chiuso, si salve chi può. Però se tu mi chiami e dici fai scendere il cane, io le apro la porta e lui scende. Se no se l'apre da solo la porta. Cappa, cappa. Vabbè. Andare bene. No, perché è fastidioso, mamma mia. È fastidioso. Infatti per quello. Però c'era anche il mio, no? C'era il coso in acciaio, l'ho preso lì al Zoo Market con la medaglietta sempre in acciaio. Quando esco fuori, cioè se ce l'ho così qua sotto non fa niente perché oramai lui non esce mai dal cancello, però se andiamo da qualche parte glielo metto, capito? Non si sa mai, non si sa mai, poi qua questo rione lo conoscono tutti a Filippo, quindi non è quello il problema, però ti ripeto, lasciargliela a letto no, non è lasciare, cioè dà fastidio. Dà fastidio al cane, perché loro sai, visto come dormono, no? Col muso tutto accucciucciato, le dà fastidio, meglio che non abbia niente. Le volte che te sei scappato, c'erano anche in calore, secondo me non sei contento da riuscire a prendere. Come sempre poi ci cominciamo a scusare, io sono stato in fretta, anche se si tirava tutte le parti, annusato, facendo, un po' come se stessi cercando qualcosa, ieri ho chiamato il dottor Camilla Popola e ha ripetuto questo ragazzo, mi è piaciuto un prestare. Poi parlando mi ha detto che ci aveva praticamente un cane corso, un tipo e un pezzo a canali. Canali, diciamo. E me l'ha fatto vedere, però manca paragone con quello di soggetto. È molto più vicino quello di. E allora da, non era un pezzo a canario puro, oppure c'era qualche incrocio con qualche un terrier, con qualche qualcosa del genere, non so, no, no, anche quello di Mario non ce n'è neanche uno a Sassari, forse neanche in provincia di Sassari, perché anche quello è arrivato là fuori ed è un cane molto molto particolare, ma se ce ne lo vedi fa paura. È anche quanto la lana, no? Però grosso, grosso, grosso. Come c'ha la testa, c'ha il corpo. Capito? Va bene, va bene. E Marco, che ora so? Sì, meno un quarto, sì, meno 10. Mi ha detto che la sua compagna è addestratrice di cani. Questo mi ha detto. Non so se mai lo conosci. La sua compagna dice che fa la addestratrice. E mi devi dire come si chiama, se mi dici come si chiama, le mando un messaggio a Mario e ti dico se si conosce, perché anche Mario c'ha il patentino. Burla, non lo so come si chiama perché è un ragazzo nuovo che è venuto a portarci la bomba, di solito poi si fa lui, io il passetto. Invece questa volta mi hanno detto ragazzo, quando mi sta stai, siccome stai, perché lo sai che mi sta a bagnare con volare, quindi mi ha cominciato a vegliare, a bagnare, e lo so, svegliare, e ho detto no, no, non ti preoccupare, perché facciamo rumore, che i cani non si sono stati molto più di noi, quindi era facile. E niente, si è avvicinato, si è fatto volare, e ha cominciato a fare a darle confidenza, cosa che non fa quasi mai, è molto confidente come cane. E poi stava, mi ha fatto vedere le fotografie e mi ha detto guarda questo qui, il cane corso che c'è, qui c'è un pitbull con il piattato, bianco e nero, bello, bello, questo non capito. No, poi c'è la mia compagna, sarà dell'attività. Non c'è nessun problema, lo adesiamo come vogliamo noi. E caro non faccio pensare che ti rispetta, se non avessi ti pensavo anche di più. Beh, come tutti, se mi insegni educazione, stai pur certo che non ne fa di niente. Non ne fa di nulla. Con riguardo a questo video mi ha mandato Valerio. Ok, no, anche quello di Mario è molto bravo, molto educato, però sono cani particolari che chiaramente devi stare molto attento, non so se mi dici il nome, sicuramente si conosce, anche lui lo fa, non di professione, però lo fa, capito, ci va quando sono gli addestramenti. Infatti conosce tutti, ma non mi ricordo molto di cosa era di, non so se te lo ricordi, di, come si chiama, quello che ce l'aveva lì nella, per andare a Muro, su Cargere, che c'era il forno del pane a Porto Torres, che è morto. C'era un forno del pane, un po' l'ottore, sì. Capito? Era un forno del pane, ma da un bel. Non ricordo come si chiama. Sì, ho sentito parlare di questo particolo, però non lo conosco. Dai. Io lo sapevo solo che ce n'era uno di allevatore a tanto questo sorso, tutto è per andare a sorso. Sì, no, questo è. No, ci picchia che sto volevo dire in fretta, perché mi si. Come chiamano il forno del pane lì a Montagello. Montagello. Poi sono le scuole, lì, dove sono le scuole di Montangelo, non hai quelle traverse. Ah, non è via Montangelo, è la via del Cino. Sì, sì. È morto lui, bravissimo. Molto, molto bravo. C'era soprattutto, principalmente adesso il partito dei tedeschi, però anche altri cani, capito? Sì, appunto, ce n'era uno che era molto bravo, Giovanni Redola. Oh, ecco, l'hai detto tu, Giovanni Redola, eh? Per lui mi stai dicendo? Il Redola non c'aveva il panificio a Porto, sì, Giovanni Redola, ecco, lui è morto. Esatto, l'ha detto lui, l'ha detto Gianni, infatti, ce lo conosci, Giovanni Redola, però, ho molti amici. C'è stato Giovanni, molto bravo era Giovanni. E c'era la tua carica, la tua carica, sì, infatti, dietro casa di Closoli, dove c'è la terra del Mediterraneo, no, oggi? Esatto, l'ho visto, sì. L'ho visto per andare lì al cimitero nuovo, là. Devi andare al bivio per andare a bancare. Al bivio per andare a bancare. E lì no, non si va per il cimitero nuovo. No, per il cimitero nuovo non si va. Ah, prima, E allora? E dove c'è la crisi, lì per il cimitero nuovo, con la strada che c'è lì, vai in modo Ah, è vero, io confondo sempre due bivi, uno è quello della Grelli, poi ci mette la nuova, l'altro è quello per bancare che è dopo la cantonata, cosa è? La sala Cattrani, ho capito. Hai visto l'altro bivio lì dove c'è il semaforo della Grelli? C'era il semaforo rosso, io ho girato per andare verso la Grelli. Io ho fatto l'inflazione, che inflazione avevi fatto? Praticamente io ho girato, visto che c'è il semaforo, no? Era rosso, io ho girato per andare verso il cimitero e poi ho risvoltato verso sinistra e sono andato verso Sassari, capito? Ho fatto un'inversione con i percorsi che ci sono, ma ho guardato bene se non li fanno, ho detto guardi che ho guardato, non fa parte. Non si può fare, è saltato del consiglio. Non sei uscito già. Non sono uscito. Certo che ho saltato due consigli praticamente. Ah, ecco. Con l'inversione non si può fare. Non si può fare. E beh, oggi ti sento parlare proprio faccio il 12, oggi che vai? Sul 12, ciao Vale, buonasera. Ti ho sentito sul 12 parlare poco fa. Io già mi ho sentito. Bene, bene, aspetta, c'è Valerio in macchina dal Ghero, avanti Valerio. Valerio da Portoferro. Ho visto il video, e beh, lì sì che c'è mare, ma tu mi hai fatto il video del porto di Alghero, faccio il video del porto di Porto Torres. Quello ti volevo dire, lì tocca di me, non maestrale dentro il porto. Mentre invece a Porto Torres lo prendo in pieno, capito Vale? E già l'ho visto. Avanti già, lo senti a Valerio? Sì, io lo sento. Ciao Valerio, mi sentito, va? Fotografato, avevano fatto il video e si diceva fotografare. E oggi non lo senti. Vabbè, ma lì è rischiato però, ma lo vedi nelle sopra in alto, i sugar. Non hai fatto a fare quel video. Ma come l'hai fatto col cellulare? Io sarei venuto la macchina fotografica, avrei fatto degli scatti qui. Ma lo volevo fare, se volevo andare verso il Porto Torres. E poi invece sono dovuto andare americano, sempre questo cacchio di piedi, e quindi non ci sono andato, non avevo più entusiasmo perché lo so, Avanti, ciao. Ehi, vabbè, è così, cioè sto facendo un aggiornamento di Google Play Music. Vai, Egi. Ora che facciamo, stiamo decidendo con Marco, eccetera, eccetera, andare. Sabato o venerdì? No, di sabato lo facciamo, perché io qui sabato la voce, ce ne andiamo tardi, è un casino, invece se lo faccio il sabato, la domenica sono libero. Non ho capito, va bene. Non mi sembri tanto entusiasta. Non è entusiasta, non c'è un problema. Avrebbe finito più di venerdì comunque, va bene. Perché venerdì? Cosa c'è, qualcosa di particolare? Non lo so, devo vedere se non gioca la Juve. Beh. Ma se gioca, gioca il sabato venerdì. Se gioca di sabato, io non ci becco. Se gioca di sabato, gioca alle 8:30. Se gioca di domenica, non c'è problema. Andiamo venerdì, che la vedi? Io ho problema, era per andare in questo lavoro, ma io sono abituato, sono anche tornato alle 7 di mattina per andare a lavorare direttamente. Io che arrivo a mezzanotte già, ma sì, sì. Non so, ti ripeto, non ho visto il coso, dopo te lo dico, che guardo, ma sono un aggiornato, mi sembri. Andrei a guardare il televideo di Mediaset Premium del calcio, ma penso che comunque giochi domenica, non so. Avanti, va lei, va lei, io non lo sento più. E oggi tutti molti gente. Ma chi dell'aria quando che cosa fanno di spettacoli, di musica, di queste cose qua, karaoke? Quando c'è? E dopo quando rientra glielo dico. È uscita un attimo a vedere come sia. Dopo glielo dico a vedere come sarà, cosa c'è di sabato. Ma oggi è lunedì, già. Oggi è lunedì, oggi, poi ti messo il conto. Vai, vai. È passato anche il martedì, non so se sei lunedì. Cioè oggi martedì, domani mercoledì già. Sì. È fatta prima gente, se non ancora avremo a luni. Cisce, cisce, via. Ucci. Ma stiamo decidendo, settimana o sabato, venerdì, ci vediamo. Sì, venerdì, va bene. Che venerdì domani ci andiamo a trovare in casa. Cos'è, la c'è in casa. Ciao, gli artigli, non bene. Oh, come freddo, bubù. Qua siamo. Stefano, attacca io pure. No, Stefano è lavoro, è incasinato pure, già sa che cos'è da fare a Urbia. Non è un massaggio, ma sarà molto difficile. Sarà molto difficile che sia libero, comunque io glielo mando lo stesso massaggio. Adesso vediamo, dopo. Ho iniziato un mese prima, devo dire. Ho iniziato un mese prima perché c'è un sacco di lavoro, capito? Meglio così, dai, meglio così. Ma lavoro per continente, per andare in continente? No, lavoro di costa, capito? C'è già movimento. Ma da Urbia per Sassari, da Sassari per Esom. C'è movimento, capito? Quindi ha iniziato prima. No, perché mi parla così di te? Come si te degli anziani vanno, questo figlio di anziani vanno a Cina, come si fa il figlio? Che sabato era, no, venerdì mi pare, che adesso mi ricordo il giorno esatto, ci siamo sentiti, mi ha detto che era qua a Sassari con un gruppo, capito, da Olbia, stava aspettando che finissero e poi doveva rientrare a Olbia, e già ne ha da fare, ma se non c'è la testa sul collo guidando però. Una persona abbastanza appoggiata. No, persona seria. Suo lavoro lo sa fare anche molto molto bene, no? Aveva una vita di guida al pullman, non è che ha iniziato oggi. Sì, oggi no, ma è giovane, io me lo ricordo quando facevo scuola guida, e lo faceva lo zio di mia moglie, la scuola guida, perché c'era guida di strada. So quanti anni conosce Stefano, tu me lo conosco una vita. Non pensare sia così giovane Stefano. Quanti pensi che ne abbia? 30 di anni. a Stefano e lo zio di mia moglie. Lo zio di primo grado, ho fatto quello della mamma. Mi facciamo guidare il tram. Perché sono parenti anche loro, capito? Io a Stefano l'ho conosciuto guidando il tram, quindi. Però era a tempo determinato. Non sto guidando quello dell'altro, capito? Ma è da parecchio che guida. È da parecchio che guida, non ti preoccupare. Da tanto, almeno un 15-20 anni che guida il pullman, tranquillo, perché era ragazzino quando l'ho scelto io guidando. E comunque a prescindere da quello, è una persona che c'è attenta sul corpo. Molto attento, molto, molto bravo guidando. Va bene, Eugenio, dove che sei andato? Che? Non ho capito, chi è? Non ti c'è breve, che? Allora stai modulando, è diventato un cazzaro. Ma chi è? La Sappignara? La Sappignara? Sì, tu l'hai conosciuto la vedi? Ma sto qua! Di tutto, c'è tre disegnati. Anche gli errati si fanno. No, beh, qua c'è 9 più 20, ora tre disegnati già. E la radio non mi inviate. Ah, c'è da Lido, allora c'è vicino a casa, ho capito. Va bene, va bene. Avanti, oggi. Sì, ci devo salutare. Mi devo dire che aveva poco, grazie. E si fa. Qua arriva, tante volte la radio 2. Mamma mia, perché... No, non lo sapevo che era l'eletica, vabbè, qua a Piazza Vecini, ero grido. Ma non lo sapevo, ma è brutta, cazzo, mamma mia. Ma questa volta c'è un altro baracchino, quello brutto. Vediamo se c'è Valerio. Valerio, te lo sto dicendo, c'è un freddo a Sassi da Gancarasci. No, freddo, qua. Ma facciamo un pezzo qua da fare un po' di fotografie, neanche pure. Ho caricato la batteria della macchina fotografica, come si incarica, e gli ho detto a mamma domenica, ce la portiamo la macchina fotografica, c'è dove la porto, c'è dove mi sta, e io, dopo i 16 ci dobbiamo portare, e mamma si già bene, però mi già mi piace. Quando fanno quelle situazioni di carne, mi piace un pezzo, mi vado sempre, ma non lo so qua. Che cosa già? Il microfono e non parli. Interessante che ci sia tutto di ciò contenti tutti. Perché tu pensi che sia una mandria dei finocchi? Maxo, a te mi scendo bene in macchina, perché non ce l'ho butti la baracchino? Pensavo che c'era la portante qua. La portante di cosa? Santiago Nubi. Santiago Nubi è quella portante, che è avanti. Poi c'è qualcuno che non esce. Santiago Nubi l'ha portato, no, Marco 9:20. Ma qua me lo schiacciava Claudio. Non c'hai il radio, Marco, non c'hai il radio. Mi non vedi chi era l'importante, c'era Sandro che non stava uscendo. Ciao Sandri, buonasera. La vecchiaia, aspetta. Marco, ti ascolto, se ci fosse un po' di problema, sei basso, passo basso. Mi è uscita la radio, adesso ti ho sentito l'ultimo passaggio. E oggi ascolto bene, Santiago 7, la radio 5, aspetta, già ne arrivo. Cosa, Marco? No, lascia la manetta, poi però metti l'altro baracchino in macchina. Questo è brutto, mamma mia quanto è brutto, non mai la radio così, tutta cupa, tutta chiusa, mamma mia che brutta. Qua non ti assomigli ma quasi, se no ti chiamo Giuseppe. No, un attimino, già ho abbassato il rumore, stavo ascoltando in VHF. Ok. Tisciù, mamma mia, non ho paura, sto avanti ancora. Va bene, va bene. Mamma mia, già sono a posto l'antenna. Con tutto che sono alte come palazzo, però c'è poco sistema, capito? È basso come... sistema, quindi no, il vento non è riuscito a comprimere niente, ma io ero battendo in poco stamani, mamma mia, l'ho messo. Questo la mia, la ballata in tutta, però i tirati facevano una bella. Allora fatto la montare l'antenna, quando c'erano le rapide, specialmente in sciù, tipo la canna perché era la bocca al pesce. No, già non sto parlando della matta, qua manco ci muoio, non ne ho tiranti, io ho il tubo a 4 metri che praticamente l'ho fatto io. È un tubo da 1,5 pollici e da 1 pollice di acqua, sono uno dentro l'altro e poi una volta che è arrivato che l'ho tirato, l'ho segnato, l'ho forato e gli ho messo un bullone passante da 8, capito? Per farlo tipo telescopico. Sandro, non ti convince, mamma mia, già, non ti convince, perché non va bene qua, non ti convince, è come io ti accendo il mio, lo Iesio e mi metto a parlare, no, mi piace, no, lascia verde, lascia verde, siamo solo atteggiando. È praticamente la figlia di quella che c'ho io, capite? Quella la serie 1000, io c'ho il 1002 e poi, capite? Vabbè, dai, lascia perdere. Vanno bene dove devono andare bene quelle radio, qua puoi fare quello che ti piace, ma io sempre questa uso. Allora, se ascoltami bene, se usi l'accordatore della radio, ok, in automatico devi togliere tutto quello che deve essere libera, non riceve niente con la radio, stai attento, devi togliere tutto, antenna diretta e usi l'accordatore suo, ok, se invece usi l'accordatore esterno devi disinserire quello automatico, perché sennò ti legge il residuo di quello che lei vede. Così la rompe, molla, non insistere quando non accorda, Sandro, rompi l'accordatore, c'è qualcosa nell'antenna, controlla. Assolutamente no, infatti ti ho detto molla, non riesci a trovare il punto di accordo, c'è qualcosa nell'antenna, Sandro, se no rompi tutto, molla, non insistere. È velocissimo, il mio fa tutto velocissimo, anche in AM se l'antenna è a posto, dove ci sono stazionarie può fare un mezzo giro ma poi accorda immediatamente, lì l'ho visto salire e scendere per 2-3 volte, c'è qualcosa che non va. Sì, sa, non so che cosa c'è che non va, però ti ripeto, il mio è quello dopo di quello lì, è velocissimo l'accordatore, quindi non ti posso dire che c'è un problema sull'accordatore, c'è più un problema sull'antenna, c'è più un problema sull'antenna, però se col 440 mi dice che accorda velocemente non so cosa dirti, la conosco perfettamente quella radio perché l'ho anche avuta prima di quella là che è uscita dopo, capito? Va bene, controlla comunque perché il vento lì da te ha picchiato forse il doppio di quanto ha picchiato qua da me, perciò controlla che non ci sia intanto qualcosa sull'antenna, sul capo, e poi rifai la prova. Sì, chi è? Adesso no, Mondi, adesso non ti sento che ci hanno portato. Non ti sento Mondi, che c'è Sandro che stava accordando. Sì, adesso ti sento, sempre basso ma già ti sento. E quando fa così che non trova la posizione sull'accordatore, vuol dire che le stazioni sono tante e quindi non riesce ad accordare, soprattutto con una radio digitale. È così, le legge è proprio troppe. Va bene, controlla Sandri, dai che faccio girare la ruota, avanti già. Danni, brumido dici, esci cazzo, quello che mangia pranzo alle 7 di sera, quell'altro che alle 7 di sera si addormenta, quell'altro che la prende in gomma le vostre mani, io non so più cosa fare. Devi subire! Oh Natali, allora mi sei dormito Gianni, cazzo! Natali, non so come vuoi già fare, non che io! Oh! Natali, oh yeah! Guarda, io sono riuscito fortunatamente a ritrovarlo, in perfette condizioni, anche a un prezzo che poi era il mio, ed è questo che sto usando, io ho il 430 e il 440. Pochi ce n'è in circolazione, Natali, pochi. Sono un bel sempre di 140, pochi sì 80, stanno viaggiando molti 140, capito? Però su internet lo puoi trovare, però bisogna vedere com'è, c'è il 440, se non lo prende una persona affidata, è molto molto delicata come radio, perché ha sempre il solito problema, capito? Ti dicono sì, funzionate al 100%, poi magari va tutto in gomma, se lo ricarichi, lo devi mandare a riparare, ce ne vogliono altre 200 sopra, perciò non lo lo so, se sento qualcosa ti avviso. No, no, no, neanche a me, molto rumoroso, non è selettivo. No, io infatti li avevo venduti tutti, ne avevo due. Li avevo venduti tutti e due. Mi avevo ottenuto il 4,30 e basta. Poi è capitata l'occasione di un 4,40, ma lo sono ripreso. Ed è questo che sto usando quasi sempre, dai. Ciao Marco, buonasera, ben sentito, mi si è addormentato Gianni. Abbiamo perso Eugenio, Sandro sta provando, Valerio è a Porto Conte che sta rientrando, vedi tu. Oh, ci vuole un incentivo a tenerli svegli. Ho portato la cosa a casa, eh. La spesa, mi manca solo l'acqua, beh. E allora? Comunque l'antenna c'è ancora, dai, sono salvo. Mario, oh, yeah. Ok, vediamo un attimino. Ho attaccato un attimino questo, vediamo un attimino. Come sta andando? 9:10 radio 5, questo è perfetto. Ok, dai. Infatti non ho stazionarie, non ho stazionarie, qua sono solo stazionarie 1 e 1. E invece con quello, con quella persona che è stazionaria non ha corda. Ciao, bisogna vedere. Bisogna vedere, capito? Quello è molto particolare come radio. Bisogna vedere. Ok. Quando vuoi provarla le attacchiamo, la porti qua, le attacchiamo l'antenna a quella sua, altri elementi e vediamo se lavora come deve lavorare. Ok, dai. Va bene. Ciao Marco. Senti a Sandro con il coso, come si chiama questo? Il. Come quello dicevi tu? No, non credo, bello, è bello. Comunque mi aspettavo molto peggio, Proprio anche oggi mi aspettavo burrasca forte, invece solo stanotte, tutto qui. E ancora c'è una raffica di vetta abbastanza alta e qua carbonato, tu sei coperto. Qua ancora ce n'è, comunque io non ho la paura. Raffiche fortissime sicuramente, oltre i 100 km orari. Ho fatto un bel danno, l'altro volta ci ha scoperchiato una palazzina, proprio ho fatto vedere la TV, i sugar, mi frutterà, va bene, riprendi, Valè, se senti a tutti, riprendi tu che io ho un secondo da mangiare il cane, che non mi raccolto, sono già le 6:30. E io vado a prendere l'acqua dalla macchina, riprendi Valerio. Abbiamo perso già, le siete rumito, via, vai. Sento Valerio. Valerio, ti ho cambiato puledro. Sandro è con l'altro baracchino. Ok, Valè, dai. No, c'era poc'anzi che non ti sentivo per niente. Adesso evidentemente sei in tutto buono e un po' mi sei salito. Un po' ti ho sentito, dai. Va bene, Valè, dai. E capo, dai. Vale, Claudio è senz'altro si è assentato. Ciao Valerio, dai. Alle prossimine. Allora, tutti spariti siete. No, sono andato a mangiare, andare a mangiare il cane. Marco, ci sei, Gianni? Io ci sono. Ho portato sull'acqua dalla macchina, sono qua, un attimo. Fatemi ripigliare fiato. Svegliato, ti sei già. Per notizia il male sta mollando e anche il vento sta calando, per notizia. Ma neanche fino a domani, ossa. Ma le previsioni per domani non lo so adesso qua, comunque qua sta calando. Stanotte qua c'era l'inferno. No, ma non possiamo andare già a casa, perché non c'è male. Considera che stamattina quando sono uscito c'è la macchina tutta piena di sale, l'ho dovuta rilavare. Ma quello sono robe. C'era sale qua, aspetta che abbasso le bocche. C'era sale qua, se mi immagino lì al produttore. Ieri notte l'ha fatturato, infatti stavo dicendo ogni tanto. Fino alle 11:10 a me ho uscito per l'antenna, adesso la sparro, stava di brutto, però devo avere qualcosa in antenna, perché non mi sembra normale. male. Così, vabbè, normale che magari ha pressato qualcosa. Il segnale è un leggermente più basso, sa. Non arrivi a 9.15 come sempre, sei poco più di 9 qua. È sceso a 8. E infatti sei sceso da 9.5 a 8. Ma è possibile che ogni vento che c'è, a Sandro gli deve danneggiare l'antenna? Caspita, vabbè che è esposto, ma all'anima. No, non danneggia niente, la manta va... Sicuramente si è mollato il PL. Attira le raffiche, ha mollato il PL. Ma lui non l'ha nastrato il PL? Ma lo già devi nastrare, perché io nastrato ce l'ho, io non c'ho né cappuccetto, né io non ho mai messo niente nel PL, nulla. Lo devi stringere bene, boh, ciao Fra, buonasera. Ma io sempre l'ho sempre sentito bene, Fra, non ha bisogno di lineare, ovvio. Fratello e lui siete segnali più forti fuori Sassari, quindi non c'è problema. Caro Marco, io non ho mai messo né cappuccetti, né cappotti, né sciarpe, all'antenna, non ho messo mai niente. Il PL attaccato, stretto a mano, bene, boh, finito. L'importante è che lui deve rimanere nel suo incasso, capito? Le due puntine devono incastrare e poi lo stringi. E non si è mai mollato. Mai è entrato acqua, mai niente. Se considerate chi è lì, chi è là, chi è qua, io sono a 45 metri di altezza. Con la mantova che praticamente non ha tiranti, non ha niente, un palo d'acqua e boh. Le direttive che... hanno 6 metri di buco, 10 metri di bracci per 3 elementi, eppure le antenne sono sul tetto. Bisogna montarle bene. Ah, io per sicurezza l'ho nastrato, forse ho messo anche l'agglomerante, così non c'è rischio che si molli col vento, in modo che non passi acqua, proprio sigillato, capito? E tanto cosa costa? Meglio sigillarlo che non sigillarlo, no? Ma perché lo devi sigillare? Cosa serve? Cosa pensi che stai facendo del bene? L'umidità prima o poi ti entra e ti rimane dentro, invece l'umidità quando è umida, col sole poi si asciuga, diventa umido col sole poi si asciuga, lì l'umidità ti rimane e ti rimane permanente. Ma sarà? Allora non, a rigor di logica non dovrei nemmeno sigillare, diciamo, il giunto tra gli elementi dell'antenna. Che se no stagna anche lì l'umidità. Assolutamente no, lì corre, perché sono innesto, quello non è un innesto, quello è un attacco, diciamo, fisso, hai capito? L'antenna è una cosa, il PL io non ne ho mai fatto, pure voi fatelo, io no, io non ho mai avuto problemi col PL, mai. In 40 anni mai sigillato un PL, mai, sempre libero, questi cappuccetti che mettono, queste cose, è tutta roba che non serve a niente, a nulla, a nulla. Aspetta un attimo, allora, ok, vediamo un attimino, innanzitutto ciao Alfredo, ben ascoltato, vai, dai che ho cambiato un po', io adesso non è con questo. 9.10 Radio 5. Già me l'immagino. Allora tu arrivi Santiago 8:15, capito? Appena sotto al 9, prima invece eri ben oltre il 9, 9.5, 9.10, anche di più. Se le condizioni sono le stesse sei sceso abbastanza di segnale. Ma devo avere qualcosa da te, dai. Sono su te, Marco, perché non sono qualcosa di stazionale, se non sono qua. Ciao Marco, ciao Claudio, scusate se sono entrato così giustamente. Ciao Claudio! Bruscamente o non bruscamente tu puoi entrare come vuoi, già lo sai che problema non ce ne so. Va bene, tu immaginati o Marco, che io quando ero a casa di mia madre, che mia madre abita non a Balai, abita al centro storico di Porto Torres, però molto vicino al mare, quindi una traversa di via Libia tu non la conosci, ma stando così. C'erano le antenne, l'antenna era una super regio, questo tipo la Mantova, con le staffe staffate a muro, proprio fatte dal murattore. Il vento, il maestrale, ne era sradicate dal muro, perché praticamente comprimeva sul tubo, quindi fretteva, ne era sradicate, e mi ha buttato giù tutto, sto parlando di 30 anni fa forse, anche di più, capito? Il vento del maestrale al produttore se non scherza, ti devi tappare fuori, soprattutto come quello di ieri notte, quindi se l'antenna di Sandro in piedi stai pur certo che è già collovata, però ci può essere magari flette che si sia allentato un po' il PL, quello può succedere, ma per il resto il segnale c'è 9 più 10. Comunque sono cose che purtroppo possono succedere. Io mi allontano un attimo, mi allontano, vedo quanta gente, 5 minuti e ritorno. Allora c'è Gianni Opio Room, che le rimetto il cambio, avanti Gianni, fai girare. Gianni si è tornato un mito. Marco, riprendi. Io sto mangiando. No, prendete con il QSO. Sandro, poi chi c'è? Franco? Va bene, dai, allora ci sentiamo fra un attimo tutti, appena finito Marco di mangiare, intanto io 2 minuti arrivo subito. No, sto uscendo, non so io che devo uscire. Ehi, Fra, non ti preoccupare, quando vuoi siamo qui, dai, tanto siamo momentaneamente tutti in stand by. Ok, dai. Ci può calare 10? No, 1, 2, 3, ci può calare 10? Più veloce il controbox, aperto la bocca, si è bloccato il rotore, così è. Ho capito che ha rallentato il controbox. No, c'è dell'aria. No, sto facendo girare, adesso che è attaccato. Vuoi vedere? Ha rallentato a 300 gradi. Vabbè, è tornata com'era, vediamo. Adesso la blocchiamo, ci deve spegnere la spia. Io blocca lì, blocca, sta a posto. Sono tutto 10 metri, durante 10 metri, sono tutto 10 metri. No, a me fratello lasciava 510. Poi chiaramente ballano i bracci della tre elementi, quella dei 10 metri non si muove neanche, perché no. Ma che c'è la monoballa dei 10 metri, lo stesso ballava un bel. Però niente di particolare, no, sono salito dopo pranzo, anche se c'era vento, ho visto che era tutto a posto, ho dato un'altra cric cric a maestrale, le facce di maestrale, ho fatto cric cric, ho pesato altro po' quelle, è tutto a posto. È basso il mio Gianfranco, capito, sono tutto calato, non bisogna tirare su, se fosse stato gli altri due elementi tirati su allora mi dovevo preoccupare. Mentre invece è basso, capito? È solo due elementi tirati su, sono solo 4 metri, quasi 5, dai. Capito? Quindi no, non ce la fa a comprimere perché ci sono tiranti sia sotto la gabbia che sotto a metà del sistema. Va bene, dai. Abbiamo risolto, abbiamo colorato anche le antenne in questo periodo, ancora non abbiamo colorato bene. Flettono comunque, le direttive flettono parecchie parole, gli agi rispetto alle cubiche, alle delta, capito, il vento fa meno danno, il vento fa meno danno, quando inizia ad avere una cubica, c'era un mio, la cubica un bel pesante. Va bene, dai, non è un problema mio, io non ho avuto problemi. Qualcuno mi pare di città soltanto, qualcuno ha avuto problemi, va bene. Avanti, chi c'è rimasto in questo canale? Ditemelo così vi metto al log, perché non ho capito chi c'è in questo canale. Uno si addormenta, uno sparisce, uno mangia, uno va in bagno, buh. Allora io ci sono, ho mangiato, ho finito. Gianni c'è, Gianfranco, segnale qua, tutto a posto, sembrerebbe col 3009 che sto usando adesso, sembra buono come al solito, non vedo cambiamenti, però i giornalisti hanno scritto 140 km orari, ma vai, forse erano state 140 km orari, sarebbero volate tutte le antenne, pali, tiranti e tutto. Guarda, è stato rilevato dalla stazione meteorologica seria, stavo ascoltando poco fa, di uno, per non fare nomi, era intorno ai 75-80 km orari il vento ieri notte. Cosa? In realtà era intorno ai 55 costante e con raffiche che arrivavano a 80 km orari, questo vale una scambita. Sì, sto parlando di raffiche, già fra costante non lo so, hanno parlato di raffiche intorno ai 75-80 km orari. Io, Marco, allora, quando c'è la bora a Trieste che soffia intorno ai 110 km orari, non puoi neanche camminare, hai capito? Perché ti porta via, ti solleva, butta a terra moto, a volte gira anche macchine secondo i passi. Quindi immaginate a 140 km orari, ma non scherziamo. 70 km orari, 70-80 km orari che è un normale vento di maestrale, niente di che. Sì, quelli della Nova sono dei ballisti patentati, ballisti, ingrandiscono sempre la roba, capito? Raddoppiano la velocità del vento, ingrandiscono troppo le cose, capito? Questo vuol dire fare disinformazione, non informazione. Ma io quando chiamo, quando io dico, sto andando a prendere le bugie, dice, cosa vuol dire le bugie? Non lo sapevo. dolci carnevaleschi, la Nuova Sardegna. E molte la criticano perché... Va. Va bene, riprendi Gianni. Sì, ma qua ti la fronte veramente. Io stamattina non ho potuto più cazzo, sono andato avanti, la cazzo la spiegavo, ma anche la spiegavo con la gamba, che fa lo spiegavo di un pesce grosso, la spiegavo la mattina. E poi, per il resto non si può vedere, però la porta avanti la spiegavo. Questo era diretto qua, perché sono il del mare. Comunque il problema non è tanto che ci sia vento, c'è vento costante, anche se ieri era molto più forte di quello che c'era stato l'altra volta. E questa era ancora più forte. L'altra volta credo che abbia raggiunto il 55, se per dire. 70, ma proprio 60 come 60 contatti sono le rapide. Quindi era tantissimo, non ha fatto niente. Solo io invece è definibile vento forte, anzi vento molto forte. Oltre a quello non era preoccupato, a me mi ha anche portato il fondo suare, mi ha attaccato la montagna. E quindi c'è dato da fare. Ieri iniziava a essere piccoli pericolosi perché in office sono uscito per controllare la situazione. E la raffica si metteva in difficoltà a camminare, quello sì. Però è importante che sia andato bene, me l'ha portato via un pezzo di tetto, ma il tetto me l'ha fatto tra l'altro, vabbè, non era fissato proprio in maniera come doveva essere, però due pezzi l'ha fatto a posto. Tetto della tettuglia, non tetto di tegole. Al monte è sceso una specie di tetto o tettoia di legno, non so chiamate le fosse, sembrava legno. È scesa, ha danneggiato delle macchine, una via del Monte Rosello, non ricordo il nome però. Ah, parte dolce, via Verracciano. Sì, via Verracciano. Lì ne è scesa quella specie di tettoia, cos'era? Vabbè, via Verracciano è al monte, era un atti dolce, partiva per il cazzo. Ah, latte dolce, poi ho sbagliato io, ricordavo al monte. Prassito che era e chi è chi? Dove c'è il suo stesso là? Quel palazzo. La traversa dove abita Gallinella, dove abita la madre del mio collega, Gabriele, ed è praticamente una traversa di via Colombo, dove c'è la farmacia, dove c'è la Coppoli. Non so perché c'è un amico. Dove c'è la Coppoli, già, non è lì? No, non c'è così, ma... però comincia a piazza San Pagano, la dove c'è la... Sì, dove c'è l'ufficio di collocamento, lì? Ecco la trappolina che c'è, e poi esce, dove c'è la farmacia, esatto. La parte finita. Esatto, esatto, lì. Ma non ricordo perché una volta in ambulanza ci hanno fatto portare questo casalino che era già deciso domiciliare e accusava dei dolori pubblici alla faccia. All'andata ci hanno accompagnato i carabinieri e poi al ritorno praticamente i carabinieri ci hanno detto accompagnatelo ma assicuratevi che rientri a domicilio e poi chiamiamo noi per vedere. Aspetta che la compagna a casa e questo qua si girava, si fermava o farlo scendere, che questo qui non voleva essere più attaccato, e per quello che ha detto che aveva mal di faccia per uscire. Aspetta che questo qua ha preso e ha detto a Edoardo, ha detto mio collega, no, tu già tu non ci scendi perché abbiamo luce e cammina, ha fatto che sino ha preso il suo, sino la porta di casa. Lui ha detto che l'ha fotografato Edoardo, questo mio collega. Il mio collega l'ha messo di grande anche a faccia. E gli ha detto, adesso se lo rompe, se rompe la palla chiama i carabinieri. E gli ha detto, tu sei fotografato, e dice mio collega, se mi capito via per realtà, non me lo tragherai. Io sono stato quello che ho visto, il mio collega. Ho ammetto che era quella che ho operato. Sì, è quella lì, ma non me ne frega niente. No. Ok, va bene, avanti Marco, quindi chi c'è rimasto qua? Io, Marco, Gianni, poi Gianfranco. Ah, Gianfranco, Delta Bravo, allora avanti Delta Bravo. Ecco, Eugenio, c'è anche Eugenio. Gianfranco, riprendi, aspetta Eugenio. Sì, riprendi un po' Eugenio, sono sempre. Io sto facendo cosa, ci sentiamo. Avanti Eugenio, ti posso fare una domanda? B2, da cosa è derivato? Bravo 2, quindi c'è un cognome con due B. Bizona al quadrato sarebbe, mi. Ho capito, va bene. Allora, bizona prolungata, va bene, bizona prolungata, B2, va bene B2, non c'è problema, siamo solidari e cordiali con te. Sarai uno di quelli che non mi farò mai la doccia assieme a te, avanti Gianni. Vabbè, B2, ma mi chiamavo insieme a. Ehi no, la cosa è? Ehi sciuga. C'è anche Natalino, Natalì, perché dici che sono ubriaco? Io bevo solo acqua. Alcolizzato? Acqua, acqua, a pranzo non ne bevo vino, mi fa schifo il vino. E birra lo stesso no, non mi si fala. Preferisco acqua o bibite, sempre gassate. Alcolizzato? Chi è che parlava così? Chi era Natalì, da Micolotto? Allora. No, Falcone già, ce l'avevo messo con, sempre col termine drogato, hai capito, drogato. Altro che 100.000 lire ti do, un calcio in culo ti do. Occupane! Sì, perché c'erano quelli di Via Bottego, che gli avevano chiesto soldi. Gli avevano chiesto soldi e lui gli ha dato 100.000 lire. Lo sai? Quei delinquenti via Bottego, mi, dove proprio dove c'è la crema Guastari Sassari. Ah, così è. Due li conosco, vabbè, già sono bravi ragazzi, ma insomma, abitano lì. Il contesto sociale è quello, Vabbè. Ah, aspetta che devo guardare già, Mediaset Premium, vedere quando gioca la Juventus. Se le prendi e fai girare, dai. Ehi, Marco, guarda che è in ballo settimana, venerdì o sabato. Ehi, pregate che sia in salute, perché c'ho sempre il naso che gocciola, come il raffreddorino, me. Capito? Sto cercando di coprirmi uscendo. Poveretto, c'era da libero un nero. Così che aspettava che qualcuno gli desse qualcosa, io siavo spiccioli, monetine, gli ho dato le monetine che avevo in tasca. Loro grazie. Al freddo mi in piedi, quello deve stare tutta la sera in freddo a piedi e tutta la mattina lì, aspettando che qualcuno si commuova e gli dia qualcosa. Lo so. Sì, ce ne sono tanti, c'è uno che è vicino a casa, che ha una baracca, dopo in questa baracca, un tipo che anche il giovane ha la bicicletta, con la gabbia davanti, c'ha il cagnolino e niente, c'è un pulizio, niente delle denunce, e poi la sera io quando porto un taglio lo vedo sempre che fare in bicicletta e va verso una campagna, poi questo è già fatto qualche baracca, qualche cosa per dormire, dove sto cercando di lottare. Ehi, ehi, si sente da lontano? Oh. Ehi, questo rumorino, di. Sì, si sente tutto qua. Sono quel rompiballe della telefonia. Vuole cambiare operatore? Quelle vocine, planta, Gianna Francesca. Io come sento già chi sono, Wind, Telecom, qualunque sia, chiudo il telefono direttamente. Non mi interessa proprio sentirli. Mamma li dà più udienza, li tratta da persone più umanamente, le tratta, io no, io chiudo il telefono in faccia, è bello che certi richiamano, quasi come se volessero magari insultarti, no, che li ha chiuso il telefono in faccia. Oggi mi hanno chiamato da Bologna, tutti che hanno qui filtri per mettere nel rubinetto, per disinfettare l'acqua. Guarda, ci sono alla bocca, non posso parlare, arrivederci pure. Sì, anche quello, mi. Per carità, mangia soldi è quello. Io glielo ho detto, guardi, quando io voglio l'acqua bevibile, la compro in bottiglia di plastica, non sto a mettere queste cose al rubinetto con filtri che poi te li fanno pagare col sangue. La compro in bottiglia già bella che è pronta, non devo. Grazie a Dio siamo ancora in un paese dove trovi l'acqua in bottiglia. Posso capire se mancano i fornimenti, i casi di guerra, di catastrofi naturali, che devi potabilizzare con il rubinetto, ma ci sono anche dalla piazzetta, c'è lo stand, almeno c'era, con questi potabilizzatori d'acqua, no? E cercano sempre di convincerti. Ce l'abbiamo anche noi il potabilizzatore di acqua, noi ce l'abbiamo direttamente lì, tu fai ma ci sono più là. Ancora non è partito, l'hanno piazzato, ma ancora non l'abbiamo messo in funzione. E beh, ieri notte sei riuscito a dormire bene? Sì, partito la mia prima, buia, ma la stanchezza che ho messo. Io dirò lo stesso, io ci sono andato a medicarmi alle 4 e io da una cosa all'altra, non sono riuscito a dormire, ero un po' franco. Ed eccomi qua, mi ha invitato a vedere la fiocca, se mi trovo, anche il parlato con un mi sono addormentato. Sei lì il problema. Dopo dai, domani mercoledì, decidiamo tra domani e dopodomani cosa fare, non so cosa dire. Io vorrei che venisse anche Eugenio e vediamo di organizzarci martedì o ci oggi, adesso vediamo un po'. Avanti Marco, Gianni, yeah. Hai un bacio a Marco là. Ma tu, porta la chiave, portatela. No, ancora no, sono le 7:30 adesso, 5 minuti ancora, lo vedo da qua che è sdraiato nel suo lettino, ma già mangiato, stamattina mi sono levato le crocchette, me le ha portate quel ragazzo, mi sa quella da 20, da 20 kg, non ne avevo più, infatti da 3 giorni che sta mangiando carne e pasta, carne e pasta, carne e pasta. Stamattina me le ha portate. Va bene. Ma la pesce le prende qua. Ehi, quella è la pasta barilla. Ehi, te l'ho visto. cosa? No, no, già, le ho prese di nuovo la carne, no, no. Le mangia più volentieri quella la carne, non saltare più, i pesce sono troppo leggeri. L'estate, quando inizia il caldo deve prendere il pesce. No, io le sto mischiando, ne ho preso un po'. Ne ho preso un po' al pesce. Oltre a quelle che mi do, che è un sacco grande, dai, me la metto un po' al pesce. Perché l'omega 3 mi fa più vicino, no? No, anche quella è la carne, è un sistema, diciamo, delle crocchette che tengono bene. Filippo bello Lucio. Bello, bello, bello. Lucio, Lucio, Lucio. Adesso mi cos'è oggi? Questo mese mi tocca il lavaggio. Questa ti abbasso un po' le crocchette. Mi tocca il lavaggio il 15, c'è appuntamento il 15, quindi 14 è martedì, mi pare così, è mercoledì. O martedì o mercoledì, adesso mi ricordo, vabbè, questa è una settimana comunque. Devo portarlo a lavare. Sì, io adesso ho già fatto la parassitaria, non lo so. Sono parassitaria, no. No. Adesso come arrivo mia figlia, li facciamo in parte, facciamo in parte insieme. Ma io lo faccio via a casa. No. Umilia Filippo a metterlo dentro, io ci avevo tutto, ho portato tutto sui mansarda, ci avevo la doppia vacca praticamente, comprata la casa degli animali, mi è costata 62 euro, capito? La doppia vacca la mette nella vasca, capito? Doppio cestetto, col tappo che c'è l'acqua proprio sotto, capito? No, no, non mai più, poi sono fiancato un giorno, mi facevo male la schiena assolutamente. Ogni mese vado da Monica, 20 euro per il lavoro. No, me ne ha fatti nulla, capito? Non ne fa per niente. Adesso ho fatto il 15 di febbraio, adesso il 15, 13, 15, 10, dipende, di marzo, la prossima settimana, dai, capito? Va bene, va bene. Avanti, oggi cosa stavi dicendo? Ah, Giudito, ribo numero 430, è andato al gruscotto, vuole MC60. Cioè, oggi fatti sentire domani mattina, dai. Già sono a casa. Avanti, già. Ciao, oggi ci sentiamo, dai. Una continuazione, serata. Alle 2:00, avanti, vai. Tante cosce belle anche a te. Ciao, genio. A Musantrenda, ci sentiamo. Marco. Marco è fuggito. Ma anticipiamo già. Sono meno 20 quasi, 8 meno 20, mi sa che andiamo a portare Lugani e ci siamo. Sì, ancora è sceso il mio è sceso quando è stato andato al lavoro, portato, e adesso lo portate su tutto. Ma a volte adesso, vedete che lo siete anche all'inizio. No, lui ho detto, domani mattina alle 7. No, anche Filippo, poverino. È uscito l'ho fatto stamattina alle 9. 9 e un quarto, dai, sono uscito. Tanto prima non volevo uscire. Poi a 1:30, prima del pranzo. Adesso lo porto adesso, sino a domani, tranquillo. Ma bisogna da solo, intanto l'ho fatto stamattina presto. Poi intanto l'ho portato a scaricare un po' la vescica, fare un po' di pipì. E poi con le crocchette bevi un bel capito. Bevi un bel iato. Comunque io già l'acqua la sto prendendo da Osio, la fontana che c'è giù a Osio. Sarò detto valle, questa, superò l'acqua, a questa se ne sto dando al cane. Bella quella, buona, molto buona come acqua, molto buona, almeno so che è ordinata e pulita. No, io attendo dopo le bottiglie, non ne ho dato niente. Ma le bottiglie ce l'ho là, quella che bevo io. No, la bottiglia me la bevo io. Io vado, la prendo a San Lorenzo Valle, ti ho detto, prendo il bidone da 20 litri, capito? Acqua di sorgente, acqua pura, senza nuda, senza niente, ma è vero, come fa la pipì, bella bianca, bianca, bianca, bella, le piace pure, è stato per perverso, vedi un bel diceva, oh, quello rubinetto, con un bravo che fa, babbia via che... Io un tempo, là, io me lo ricordo, mamma faceva la cantina, la cantina, la cantina, la cantina, la cantina, la cantina, la cantina, la cantina, la cantina, la cantina, la cantina, la cantina, la cantina, la cantina, la cantina, la cantina, la cantina, la cantina, la cantina, la cantina, la cantina, la cantina, la cantina, la la scatoletta della cristallina, bella fresca, la soleva minerale, era. Non ce la fai adesso, puzza proprio l'acqua, l'acqua puzza, puzza di cloro, puzza di... non è più come prima, assolutamente, capite? Quindi io neanche quella delle bottiglie la do, assolutamente, io prendo solo la San Martino, quella che non è frizzante, cosa naturale, ho visto l'ha fatto la mia suocera, una volta me la porta lui, 5, 6 brick, 7, a casa mio cognato io vado via che sono e me la prendo, ho visto, che è quella tipo normale, non è frizzante, frizzante non ne beviamo in casa, e a Filippo le do quella di San Lorenzo Valle. C'è una sorgente di amicidia, bellissima, ma prendono anche per casa, capite? Sempre pieno di gente, con le bottiglie, con i bidoni. Io vado ogni tanto e la prendo, se non me la prende Gabriele, il mio collega che abita vicino a te, che lui c'ha quella zona di Osio, quando non ci posso andare io, va lui e me la passa. No, e se no... bruttissima con l'acqua di sasso, per carità di Dio. Vediamo Marco che fine ha fatto, dai Marco. Lei era al telefono, dai. Però non posso stare alla radio, dai. Lascia acceso, devo parlare qua di persona, dai. Saluto tutti nel caso non rientri, dai, ci sentiamo domani. Pazienza per oggi. Ciao Marco, ci sentiamo. Claio, ci andremo a portare in gara. Ci sentiamo. Ehi, dai, anticipiamo oggi, io certo venni su, ho poca voglia, al limite riprendo dopo, dai, se c'è Gianfranco che sta facendo cosa, sentiamo dopo. Ciao Marco lì, ciao già, ciao anche Eugenio, ho salutato, ciao a tutti quelli che sono ascoltati, dopo passo il QRX e vado a portare il cane, ciao. Ciao, ciao, io andiamo più bello, mi stai già guardando. Ehi, anche a me Filippo con il mio altro, a fare un gabbo, dai, a dopo Gianni, a dopo, ciao ciao. Ciao, tu Giaffa, tu sì, vai a portare il cane Giaffa, ci sentiamo, ci attorno subito.